su un grattacielo vedo gli aerei passare, poi guardo giù, voglio saltare, voglio imparare a volare. E allora volo via, siamo in viaggio, io e la mente mia. Guardami, ho già spiccato il volo ed ora sono proprio sopra casa tua. Il falco va senza catene, fugge agli sguardi, sa che conviene. È indifferente, sorvola già tutte le accuse o schiacciata. Io che son falco, falco a metà. Sono di nuovo sul grattacielo ed ho imparato a volare. Se guardo giù, quello che vedo ora è la gente passare. Se questo è il segreto per vivere con me, seduto su un grattacielo devo stare in alto come un falco per non farmi catturare. Ma il falco va senza catene, già gli sguardi, sa che conviene. È indifferente, sorvola già tutte le accuse, boschi e città. Non so my friends, libera le ali, ogni animale ha. Io che son falco, falco a metà.